Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata come i nostri GR24 quando sono andati in onda vi hanno già ricordato, perché c'è lo sciopero oggi al gruppo del Sole 24 Ore di tutti i dipendenti non giornalisti. Alcuni scioperano, altri no, ci mancherebbe, però questo chiaramente ha comportato modifiche anche, anche importanti del palinsesto. Il programma, nello specifico Focus Economia, terminerà alle 18. E questo per rispettare appunto lo sciopero indetto dalle RSU di tutti i dipendenti del Sole 24 Ore, appunto non giornalisti, e quindi avremo una puntata un po' particolare, vi dovrete accontentare. Detto questo, una puntata in cui parleremo anche e soprattutto di bilanci, perché tra oggi e domani, oggi è stata la volta dell'ENI e di Finmeccanica, domani sarà la volta del gruppo Intesa San Paolo con il rapporto sui distretti di questo paese, emergono vari elementi di interesse sui bilanci e anche cercheremo come sempre di dare un aggiornamento della giornata economico-finanziaria. Faccio notare che, visto che parlavamo di Leonardo Finmeccanica, il titolo guadagna il 6,74% in questo momento, mentre Unipol guadagna il 2,70%, Tenaris il 2,40%, Case New Orleans il 2,20% e il 2% lo guadagna BPM e anche Mediobanca, l'1,70% lo guadagna Eni e Prismian, l'1,50% Chrysler e Unicredit. Il fronte opposto vede Salvatore Ferragamo perdere il 2,80%, Hughes Santa Portella 1,80%, Brembo l'1,30%, Mediaset meno 1%, Italgas meno 0,50%. Poi daremo anche i migliori e i peggiori, come sempre. Segnalo che l'euro su dollaro a quota 1,06 e 31, come sempre il numero per i vostri SMS e WhatsApp è 349 238 6666, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo appunto, come dicevo, di conti e piani industriali di Eni, di Finmeccanica, ma anche della vicenda Dieselgate, nel senso che ci sono diverse notizie che riguardano il Dieselgate, e poi avremo anche, da questo punto di vista, un importante approfondimento per quello che riguarda il dato Istat, ossia oggi il dato sull'inflazione vede il tasso di inflazione a febbraio, il dato definitivo, all'1,6%, il più alto da 4 anni. Come abbiamo ricordato molte volte, in questi casi l'inflazione, l'aumento dell'inflazione non è una buona notizia, perché deriva soprattutto dall'aumento dei beni energetici e quindi l'inflazione importata, come si chiama in gergo, e non da un aumento dei consumi. Ma parleremo anche dei voucher, perché a questo punto la maggioranza, il governo, sta pensando a un decreto per superare il quesito referendario sui voucher, così forte da de facto, scusatemi, come ha detto oggi il presidente dell'INPS Boeri, annullare l'esistenza stessa del voucher. Ora io dico una cosa, poi andiamo con le altre notizie in breve. C'è stato un uso distorto dei voucher, un mancato controllo, e anche la norma, quando fu introdotta, cioè allargando l'utilizzo dei voucher, non prevedeva, questo ormai è chiaro, sufficienti controlli per fare in modo che non venissero utilizzati per nascondere lavoro di carattere temporaneo ma strutturato, e non di carattere solo occasionale, che sia a tempo indeterminato o a tempo determinato poco importa. Invece così è stato, numeri alla mano, e se si guarda l'esplosione dei voucher l'anno scorso. Si tratta anche in questo caso di non buttare via il bambino con l'acqua sporca, e cioè i voucher in alcuni settori, agricoltura, turismo, alberghiero, e per alcune categorie professionali, alcune categorie sociali, pensionati e studenti, servivano per uscire dal lavoro nero. Sappiamo tutti che, penso alla stagione balneare piuttosto che alla vendemmia, che tutti i ragazzi, gli studenti o chi fa un lavoro temporaneo e occasionale, il rischio, per non dire la certezza, era che altrimenti sarebbe stato pagato in nero. Per cui è vero che ci sono state delle distorsioni anche forti, dopodiché riconfinarlo semplicemente alla parte relativa alla famiglia significa di fatto cancellare l'utilizzo stesso dei voucher. Famiglia vuol dire, per quello che riguarda l'assistenza, diciamo, domestica. Detto questo, a chi mi continua a scrivere, i voucher vanno aboliti, sì, attenzione, prima che dell'introduzione dei voucher non è che ci fosse lavoro regolare e trasparente, veniva utilizzato anche il lavoro nero. Io penso che si possa evitare di passare da un eccesso, quello registrato fino adesso, a un altro eccesso, l'eliminazione de facto, come dice Boeri, dello strumento dei voucher stessi. Mi fate notare che non ho detto gli indici: Milano più 1%, Parigi più 0,20, come Francoforte, Londra più 0,20, Dow Jones più 0,26, quindi è Milano oggi la migliore. Notizie in breve. Allora sì, queste le notizie che stavamo commentando, e partiamo proprio per quello che riguarda la giornata dall'ENI. Presentato oggi la Comunità Finanziaria Milano il piano ENI da qua al 2020, quello già presentato agli investitori a Londra. 2016 anno eccezionale, definito così dal numero uno dell'ENI Claudio Descalzi per il gruppo ENI, nonostante il contesto difficile, e anche il 2017 sarà un anno molto importante. Lo ha affermato appunto il ministro delegato del gruppo Claudio Descalzi, precisando che gli obiettivi della crescita contemplano già anche un aumento del prezzo del petrolio, ma ha anche annunciato che Eni vuole puntare di più sulle rinnovabili oltre agli attuali progetti, come racconta Claudio Descalzi al microfono della nostra Anna Marino. Abbiamo le risorse, i progetti per crescere di circa 850.000 barili, molto importante. Abbiamo una grossa disciplina finanziaria che ci rende quello che noi diciamo cash neutral, che vuol dire riuscire con la cassa operativa a coprire i nostri capex a valori inferiori ai $43, quindi questo è un obiettivo molto importante per poter creare cassa positiva nel caso di un aumento del prezzo del petrolio, che secondo noi avverrà. Vogliamo crescere e diciamo ampliare il modello della Gas & Power crescendo nell'LNG, come abbiamo detto, quindi passando dai 3 milioni e mezzo di tonnellate di adesso ai 10 milioni e mezzo, ai 10 milioni di tonnellate nel corso del piano e dopo. E vogliamo mantenere, questi risultati ci sono, una chimica e una raffinazione molto forte. Nell'arco di piano la raffinazione darà circa 3 miliardi e 3 di cassa, di free cash flow, e la chimica circa 1,2 miliardi, quindi direi che sono due realtà che hanno perso per tantissimi anni, che hanno una prospettiva di grandissima crescita. Perché puntare sulle rinnovabili? È un mercato anche per voi, magari in futuro? Il discorso rinnovabili è nato da un discorso 3 anni fa ambientale, perché avevamo differenti aree, quindi la prima area, quella di ridurre la CO2, abbiamo ridotto del 70%, la CO2 che producevamo. Non siamo dei grossi produttori di CO2, però l'abbiamo ridotta. E dopo è stata quella di pensare a una energy transition, o un energy mix, quindi gas rinnovabili. Il gas ce l'abbiamo. E poi è stato quello di pensare proprio di lavorare sulle rinnovabili proprio per un momento di efficienza dell'azienda, perché là dove siamo abbiamo più sole, là dove lavoriamo abbiamo più sole che olio e gas, e abbiamo e consumiamo un sacco di gas per far funzionare le nostre attività. Quindi abbiamo detto c'è un grandissimo spazio di ottimizzazione proprio nel sostituire questo gas bruciato. Quindi questa è l'idea. Non siamo una compagnia che dice andiamo a sviluppare rinnovabili. È chiaro che se riusciamo a sviluppare i 3-4 gigawatt che produciamo nelle nostre operazioni, mettiamo dei rinnovabili, e sono progetti che hanno una redditività, come avete visto, progetti che vanno fra l'8 e il 12% di internal rate of return, possono cominciare a creare un certo EBIT. Quindi vediamo al 2030 se Eni continuerà così, quindi crescendo nei rinnovabili, quale potrà essere l'EBIT che si aggregherà a quello delle altre attività. E questo è il modello. Abbiamo 14 progetti sui rinnovabili per produrre 220 mega. Ne abbiamo a Porto Torre, a Semini, quindi due in Sardegna, due in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in Basilicata, quindi nel sud dell'Italia, dove abbiamo attività, dove abbiamo chimica, raffinazione, upstream, e abbiamo una buona copertura in termini di sole. Due sono già partiti in Sardegna e penso che riusciremo a avere una prima produzione fino al 2017, inizio 2018, e gli altri partiranno nei prossimi due anni. Li sanzioniamo tutti, abbiamo adesso mi sembra 260 milioni in Italia sulla parte rinnovabile. Restiamo in tema di Eni, uno dei principali gruppi in questo paese, perché tra l'altro Descalzi ha fatto anche una battuta a margine sulle nomine e anche sull'indagine milanese sulle presunte tangenti in Nigeria, se potesse influire sul rinnovo della sua carica alla guida dell'Eni. Ascoltiamolo al microfono sempre della nostra Anna Marino. No, sulle nomine ho proprio... bisogna chiederlo agli investitori e agli shareholder, non bisogna chiederlo a me. Se volete parlare di produzione, sviluppo e tutto il resto, ben contento, ma di nomine, visto che non sono io a decidere, meglio che ne parli qualcun altro. A Milano è una fase, il procuratore ha fatto le sue indagini, adesso andranno da fine marzo, maggio, nelle mani di un GUP, che è un giudice indipendente, che deve fare le sue valutazioni e deve coinvolgere le due parti, non solo la parte procuratore, e poi farà le sue valutazioni e poi dirà. Allora, c'è qualcuno, non avevo mai ricevuto un messaggio del genere, c'è un ascoltatore che dice che non mi ascolterà, non ci ascolterà più, ma non per quello che diciamo, per come lo diciamo, per le idee che esprimiamo, ma perché non sopporta gli ascoltatori di questo programma. Guardi, insomma, ben tutto, ognuno sia un po' più tollerante. Se uno può non ascoltare un programma perché non le piace, ritiene che non sia affidabile, non le piace il programma, non le piace il tema, non le piace il conduttore, ma non per il tipo di ascoltatori che questo programma ha. A parte il fatto che io leggo messaggi anche provocanti, ma non è che tutti gli ascoltatori scrivano, sono una percentuale minore. Comunque, insomma, non faccia come il marito, insomma, che per fare un torto alla moglie che l'ha tradito, diciamo, si evira la parte riproduttiva. Va bene, andiamo sui conti dell'Eni, però Descalzi ha ricordato, insomma, 2016 già lo anticipavo io, duro, ma ciò nonostante risultati storici. A chi mi chiede dell'indagine invece su Finmeccanica non riguarda gli attuali vertici, adesso vi arriveremo, abbiamo un'intervista anche con Mauro Moretti, però Descalzi dal palco nell'illustrare appunto 2016 e prospettive sul 2017. Il 2016, se vogliamo chiudere, come possiamo caratterizzarlo? Ha avuto, diciamo, per Eni è stato un anno, come per tutta l'industria, duro da un punto di vista dei fondamentali, ma eccezionale dal punto di vista dei risultati. L'esplorazione l'abbiamo vista, se parliamo della produzione, la produzione, noi avevamo un budget di 1.760.000 barili, abbiamo avuto perso quasi 50.000 barili, fermo Val d'Agri, un Goliat che ha avuto un iniziale downtime abbastanza alto, più tutte le disruption nigeriane, abbiamo perso circa 55.000 barili in media annua. Nonostante questo, siamo riusciti nell'anno, e questa è un'altra impresa importante, a recuperare e ad avere e mantenere il budget di 1.760.000. La cosa più importante è che l'ultimo trimestre abbiamo fatto il nostro record di produzione a 1.860.000 barili, che se noi prendiamo la produzione di fine 2013 e di fine 2016 rappresenta un 15% di aumento produttivo. Vuol dire che in tre anni, pur tagliando i costi del 37%, abbiamo aumentato la produzione di 250.000 barili, e questo è il record di sempre da quando esiste Eni in termini di aumenti produttivi. E produzione organica, tutta questa produzione è venuta dalle nostre scoperte, quindi ha quel costo che vi ricordo essere inferiore a 1, quindi si porta dietro un valore intrinseco. Oh, allora, adesso andiamo alle altre notizie di questa giornata. Qualcuno, io penso, perché forse non ha sentito la mia premessa, che oggi sciopero i dipendenti del gruppo Sole 24 Ore non giornalisti, quindi anche gli assistenti di programma, anche alcuni tecnici. Qualcuno mi scrive: che puntata noiosa. Allora, guardi, per carità, però non puoi immaginare che con uno sciopero sarebbe come se io avessi un negozio in cui scioperano i miei dipendenti o i dipendenti che collaborano con me, resto io a cercare di dare un servizio, entrasse un cliente e dicesse: ma oggi si fa più fila del solito. Cosa pensate, che la puntata possa essere identica quando, diciamo, non sciopero i dipendenti del gruppo? Sarebbe grave se la puntata fosse identica, diciamo, no? È ovvio che è una puntata in cui cerchiamo, senza l'ausilio di chi assiste il programma in redazione e poi in regia, di fornire comunque un servizio limitato, visto lo sciopero in corso. Allora non sto facendo io la regia, almeno quello no, non sarei neanche in grado, però è chiaro che si sente l'assenza, diciamo, di chi aiuta da anni il conduttore a creare il programma ogni giorno, no? Se no che li ringrazierei a fare ogni venerdì, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi. Andiamo avanti con invece l'altro tema che tiene banco, poi arriveremo a Finmeccanica, o come Leonardo, come si chiama adesso, e mi riferisco ai voucher, perché la maggioranza, e continuano a uscire agenzie, è arrivato un emendamento di Rosato del PD, sta pensando di arrivare a una tale modifica, spieghiamola in questo modo, da portare sostanzialmente al superamento del referendum, perché si è cambiata così tanto la normativa, addirittura di cancellare del tutto i voucher, e anche di superare le norme sugli appalti, così di fatto verrà annullato il referendum del 28 maggio. Ripeto, la proposta presentata dal capogruppo del PD Rosato in un'assemblea alla Camera. L'obiettivo, se abbiamo ben capito, è di approvare il testo domani in commissione, trasformarlo in un decreto da approvare già venerdì in Consiglio dei Ministri. Devo dire che su questo ci sono un po' di frenate. Da un lato il presidente dell'Ips Boeri, che dice: guardate che è un errore eliminare del tutto lo strumento dei voucher, cosa su cui io sono d'accordissimo personalmente. Anche la segretaria della CGIL del Camusso frena, dice: ma forse si andrebbe troppo in là. Faccio notare che pure la CGIL ha usato e ne ha usati parecchi di voucher per i pensionati, così, ma a dimostrazione che c'è qualche bontà in questo strumento. Chiaro che se ne fai strame utilizzandolo al posto di assunzioni anche a tempo determinato, devi imporre un limite. E Lupi ha detto: attenzione, se il PD elimina i voucher, il disegno di legge se lo vota da solo. Ci racconta tutto il nostro Vincenzo Miglietta. La maggioranza accelera sui buoni lavoro, si punta infatti a cancellare del tutto i voucher, come chiede il quesito referendario, e a superare anche le norme sugli appalti, così da annullare l'appuntamento del 28 maggio. La decisione sarà presa in una riunione del Partito Democratico, con l'obiettivo di approvare il testo domani in commissione e trasformarlo in un decreto da approvare già venerdì in Consiglio dei Ministri. Dal PD vi è la necessità di evitare distorsioni e scongiurare il referendum sul lavoro in prossimità delle amministrative, da qui la scelta di superare i due quesiti referendari. La proposta è dunque quella di abolire del tutto i voucher, così come chiesto dal quesito, e ripensare in un secondo momento uno strumento flessibile anche per le imprese. La cancellazione totale supererebbe poi lo stallo di queste ore. Il testo in commissione lavoro non piace infatti al sindacato e alle opposizioni, perché lascerebbe a loro dire un uso dei voucher ancora troppo ampio. Per noi, spiega la CGIL, non sarebbe sufficiente, possono rimanere solo per uso familiare, dice la Camusso. Abbiamo detto una cosa molto precisa. Abbiamo proposto il referendum abrogativo perché pensiamo che quella sia la nuova frontiera della precarietà. Abbiamo detto che siamo disponibili a ragionare della loro permanenza, se questa riguarda solo le famiglie, nel senso che non riguarda più la sostituzione di lavoro, non riguarda l'attività della pubblica amministrazione, non riguarda l'attività delle imprese. Soluzione questa bocciata però tra gli altri dal presidente dell'Inps Boeri: lasciarli solo per le famiglie vorrebbe dire di fatto cancellarli. Io sto semplicemente dicendo: guardate che se fate questo vuol dire cancellarli, allora tanto varrebbe cancellarli del tutto. Mi sembra che siamo stati forse anche noi quelli che avevamo inizialmente denunciato il fatto che c'era un abuso dello strumento, ed è evidente che c'è stato un abuso dello strumento, però ci sono tanti modi per poter porre sotto controllo utilizzo. Per un compromesso sempre dal sindacato la CISL, così la Furlan. Ritornare a coprire attraverso i voucher quelli che sono davvero lavori saltuari, assolutamente non continuativi. Cancellare le norme sui voucher è una stupidaggine, perché vuol dire cancellare uno strumento che ha ben funzionato, dice Brunetta, Forza Italia. Sì, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul tema dei voucher, lo sappiamo, questo è un paese assurdo, no? È il paese del pendolo delle volte. Passi da un'esagerazione, abuso dei voucher, invece che poi limitarti a sanzionarlo, a fare maggiori controlli, a delimitare ancora meglio l'utilizzo, si butta via tutto. Così adesso mi spiegate alcuni settori, ripeto, agricoltura, turismo in primis, ma non solo, anche i lavori da casa. I voucher venivano utilizzati correttamente, per esempio per i pensionati, devi fare un lavoro occasionale, ti fai pagare con un voucher, o dagli studenti, ma perché farli fuori? Così lo studente lo ripagheremo in nero e il pensionato che fa lavoretto verrà ripagato in nero. Un gran successo. Cioè, se questo è l'obiettivo, ripeto, anche la Camusso è scettica, perché forse pure loro nel fare una battaglia politica al di là delle migliaia di ore che ha utilizzato la CGIL, avrebbero dovuto specificare meglio, cioè, anche perché se tu utilizzi solo per, diciamo, per la casa, di fatto lo stai distruggendo, che si poteva salvare forse qualcosa in questo strumento che ha l'obiettivo, lo ripeto, che mi sta mandando a quel paese, aveva l'obiettivo di far emergere dal nero micro collaborazioni, okay? Poi se in questo paese c'è sempre qualcuno che fa il furbo, lo si sanzioni, ma non buttar via tutto. Comunque, prima di arrivare alla borsa, l'altra notizia di questa giornata economico-finanziaria riguarda l'inflazione, e anche qui per rispetto, lo dico chi mi sta scrivendo, dello sciopero dei dipendenti. Questo vuol dire che per esempio non possiamo fare collegamenti telefonici, perché andrebbe a violare lo sciopero degli assistenti. Quindi gli unici aggiornamenti che vi posso dare sulle notizie sono attraverso i servizi. Lo dico per così, qualcuno mi chiede anche come mai artisticamente oggi il programma è diverso, fosse il programma artistico, ragazzi, in questo periodo qua sole, fosse il programma artistico saremmo tutti artisti. Allora, l'inflazione che rialza la testa, il dato definitivo all'1,6%, aumenta anche nei beni alimentari, ma il motivo esterno, prezzi di energia e derivati. Il servizio della nostra Valentina Furlanetto. L'inflazione in Italia accelera ancora. A febbraio l'Istat ritocca le stime preliminari, il dato definitivo è in rialzo dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell'1,6% rispetto a febbraio 2016. Per trovare un dato più elevato bisogna tornare a febbraio 2013. Tra le ragioni dell'accelerazione, l'aumento dei prezzi delle componenti più volatili, come gli alimentari non lavorati e i beni energetici non regolamentati. Fra le città i prezzi sono saliti maggiormente a Bolzano e Trento. In generale, balzo dei prezzi dei vegetali freschi di oltre il 37% su febbraio 2016, l'aumento maggiore degli ultimi 8 anni. L'Istituto di Statistica ha diffuso anche il dato sul commercio. Le vendite sono in crescita, un aumento dell'1,4% rispetto al mese precedente in valore, dell'1,1% in volume. Vendite in rialzo dell'1,9% per la grande distribuzione, sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari. L'incremento maggiore si raggiunge nei discount, più 3,5%, segno meno invece per i piccoli negozi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, alcuni mi scrivono sui voucher, lei è ridicolo, adesso l'evasione e il nero si fa con i voucher. Si fa anche con i voucher. Altri mi dicono, sono moltissimi, abolire i voucher sarebbe come abolire il vino perché qualcuno si ubriaca. Ma io voglio leggere, insomma, alcuni messaggi che mi stanno arrivando. Mio figlio lavora ogni giorno in una yogurteria presso un centro commerciale da 3 mesi, così altre 2 ragazze sue colleghe. Senza i voucher l'azienda sarebbe stata costretta a far loro un contratto o no? Allora, questo è il caso di un cattivo utilizzo dei voucher. Se suo figlio lavora ogni giorno da mesi in un centro commerciale, in una yogurteria con altre 2 ragazze e usano i voucher, quello è il momento in cui devi sanzionare i voucher, perché non sono pensati per sostituire un contratto di collaborazione in questo caso o come si voglia. Un altro mi scrive: nella mia microazienda pago un collaboratore per 4 ore a settimana per le pulizie, lo dovrò mandare a casa. Questo è un caso invece più simile a quello che era lo spirito dei voucher. Se tu lavori 4 ore a settimana, non ogni giorno da 3 mesi, ma 4 ore a settimana, quello era un classico caso in cui tu potevi utilizzare il voucher, per esempio, per le collaborazioni domestiche. Anche qui, non se fai 4 ore al giorno, ma 4 ore a settimana. Ecco perché le leggi vanno normate, precisate, ma è inutile fare buttare via tutto. Comunque adesso vado sul meteo e la pubblicità. Non la farò io, cioè il metro non lo posso fare io, è già registrato. E poi andiamo sulla borsa e il piano industriale di Leonardo ex Finmeccanica, ma anche se ce la facciamo il Dieselgate. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, io manderei questa tutta la puntata, visto la difficoltà a condurre senza un assistente. Non possiamo andare ai Evergreen tutta la puntata, no? Scherzo, andiamo sulla borsa e poi ascoltiamo anche Moretti di Finmeccanica. Borsa che oggi vede Milano tra le migliori, 1 più 1 21%, Parigi più 0,20%, Francoforte più 0,20% e Dow Jones più 0,30%, Londra più 0,24%. E vedo che mi scrivono anche molti studenti che danno ripetizioni si facevano pagare con i voucher, altra forma di lavoro nero storicamente data. Ma adesso vorrei andare sulla borsa. Poi quando abbiamo quella base afghana, visto che oggi il programma, diciamo, è quasi da pre-aperitivo che è d'altro, andiamo anche con la base afghana. In onore a Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore, ospite nostra oggi eccezionalmente, perché non possiamo avere collegamenti telefonici. Buonasera. Milano più 1,21%, dicevo, Ferragamo meno 2,27%, IUX Santa Portè meno 1,80%, Brembo meno 1,30%, Italgas meno 0,50%, Leonardo Finmeccanica più 7,75%. Allora facciamo ascoltare subito l'intervista che ha realizzato poco fa la nostra Anna Marino con Mauro Moretti a margine della presentazione del piano industriale di Leonardo, appunto ex Finmeccanica, e quindi il piano per i prossimi 5 anni. Sono i pilastri, sono quelli dello sviluppo e della crescita con investimenti nelle attività che già stiamo facendo e dei quali siamo maestri al mondo: l'elettronica, gli elicotteri, i trainers, e anche con acquisizioni nei settori che riteniamo strategici per la nostra presenza ai livelli più alti nel mondo nel campo dell'aerospazio, difesa e sicurezza. I settori sono quelli dello spazio, dove abbiamo già iniziato a investire con l'incremento, il raddoppio della nostra presenza in avio lanciatori, sono quelli della parte dell'elettronica, della cyber elettronica, la recente acquisizione di una società statunitense che lavora sui lasers ne è una dimostrazione, che potrà dare effetti su tutta la sistemistica che abbiamo nel campo dell'airborne e del naval and land, e sono quelli degli elicotteri, dove abbiamo già una produzione importante di nuove piattaforme. L'ultima è quella che vedete là e che dovrebbe debuttare all'inizio del 2019, sta già in processo di certificazione. Abbiamo poi da considerare tutta la stagione importantissima che ci è offerta dai nuovi sistemi di navigazione satellitare, Galileo, GPS rinnovati, che offrono una rinnovata possibilità di controllo di qualsiasi veicolo di terra, di mare o di cielo, i cosiddetti droni. Si apre una stagione nuova, noi su questo siamo molto avanti, siamo tra i più avanzati nel creare sistemi di controllo di questi oggetti, particolarmente in campo aereo e in campo aereo, sia nel campo dell'elicotteristica che nel campo dell'Alifis. L'investimento di riguardare anche il fatto che in Europa c'è un processo di consolidazione dei sistemi della difesa e della sicurezza, e l'industria deve non solo seguire, deve addirittura avanzare e recuperare quello che è una deficit di industria europea se rapportiamo alla situazione che c'è negli Stati Uniti d'America. Li stanno già ampliando con l'extra budget che è stato già deciso ed è per quello che noi che siamo presenti vogliamo rafforzare la nostra presenza, l'acquisizione già recente che abbiamo fatto, ancora modesta, pensiamo di poter arrivare anche a ottenere nuove risorse finanziarie con una IPO sulla DRS che oggi abbiamo, mantenendo il controllo al 51% di DRS, ma potendo finanziarizzare l'altra parte da utilizzare per nuovi investimenti sempre in campo degli Stati Uniti, cercando di costruire una dimensione diversa da quella relativamente piccola che abbiamo se confrontata alle grandi major americane. Il ritorno della cedola è storico? Il ritorno della cedola è storico soprattutto perché non è fatta a debito, ma è fatta con la creazione di valore interno, fund from operation, che riesce ad alimentare prima della cedola la restituzione di debiti, nuovi investimenti e, visto che ci sono, anche cedole. E quello che deve essere la conduzione dei prossimi anni, mai pensare di fare servizi a debito, soprattutto quelli di distribuzione di cedola, ma fondare il tutto sulla creazione di valore che sappiamo fare e, come avete visto nelle proiezioni, ce n'è tanto da poter ben investire. La sentenza non posso commentarla perché non la conosco, nel senso che non sono ancora state scritte le motivazioni. Posso dire che il sistema italiano, io sono stato condannato perché svolgevo quel ruolo nel 2001-2006, non nel 2009, quindi è una responsabilità oggettiva, remota. E posso dire che i sistemi che ci sono in Italia sono identici a quelli francesi, tedeschi, svizzeri, sono utilizzati alla stessa maniera e nessuno dopo quell'incidente ha cambiato qualcosa. Tutti hanno fatto una cosa sola. Siccome si è rotto un asse di un treno, hanno guardato e hanno controllato meglio gli assi. Quindi quando vedremo le motivazioni potremo dire qualcosa. Per il resto non posso commentare niente. Ogni socio di controllo esercita i suoi diritti, li fa naturalmente ponderando tutte le cose che deve guardare e sono assolutamente sicuro che il governo troverà la soluzione più giusta alla situazione che c'è in questo momento. Allora, così Moretti, il riferimento era all'indagine che lo riguarda appunto per la tragedia di Viareggio. Altra cosa, ma non c'entra nulla Moretti, è quanto oggi ha notificato la Guardia di Finanza, ossia l'avvio di chiusura indagine a 82 tra dirigenti e dipendenti di Finmeccanica, la maggior parte dei quali sono già in pensione o sono usciti dalla società, con l'accusa di appropriazione indebita aggravata di risorse della società. Avrebbero creato una società all'estero, localizzato all'estero, una società del gruppo per evadere oltre 135 milioni di euro. Non c'entra nulla l'attuale vertice di Leonardo S.p.A. di Finmeccanica che, come sostiene la Guardia di Finanza, ha assicurato la massima collaborazione. Allora, Eleonora Micheli, il balzo del titolo, poi andiamo sul traffico e facciamo il resto della seduta di borsa. Prego, Eleonora. Sì, le azioni hanno imboccato la strada del rialzo nel pomeriggio, soprattutto dopo che è stato annunciato che quest'anno la società tornerà al dividendo. Il consiglio di amministrazione in effetti proporrà una cedola di 14 centesimi e dopo 6 anni invece che gli azionisti erano a bocca asciutta. Non solo, Moretti, l'amministratore delegato, ha anche annunciato che dovrà essere distribuita probabilmente una cedola anche nel 2017 e 2018 in rialzo rispetto ai 14 centesimi di quest'anno. Ovviamente la borsa non poteva che premiare le azioni. E ha premiato tanto, più 7,75% a 13,90€ ultimo prezzo. Traffico. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Oh, questa è la nuova base afghana. Bene, bene, bene. Allora Micheli, andiamo sul resto dei titoli. Unipol più 3,5, Banco BPM più 2,60, Case New Holland più 2,35, Tenaris più 2,32%. Mentre vorrei un commento anche per Ferragamo meno 2,27, Hughes Entaporté meno 1,80, Brembo meno 1,30%. Non male la base, non male. Sì, per quanto riguarda soprattutto Ferragamo, oggi i titoli sono andati giù e sin da questa mattina, anzi, hanno chiuso sopra i minimi di giornata perché c'è stata delusione per i conti di bilancio. L'utile che è stato comunicato ieri in tarda serata è sì salito l'utile 2016 sul 2015 del 17%, portandosi a 202 milioni di euro. D'altra parte, questo soprattutto per le agevolazioni fiscali, per il cosiddetto patent box, che ha pesato per ben 32 milioni, altrimenti sarebbe addirittura calato. E quindi la borsa ha reagito male a questi dati. In più, l'amministratore delegato Eraldo Poletto ieri non ha dato indicazioni sul 2017, ciò, come ben sappiamo, non piace mai al mercato. E per quello che riguarda poi altri titoli, devo dire poco mosso Brembo, poco mosso Italgas meno 0,50. Sul fronte di chi ha anche guadagnato, cito Moncler più 1,40% come Exor, ed Eni, visto che ne abbiamo parlato a lungo e abbiamo ascoltato anche l'intervista di Anna Marino al Credito dei Scalzi, più 1,40%, Telecom più 1,35%. Qualcosa da segnalare sui migliori e peggiori? No, semmai da segnalare che occhi puntati quest'oggi anche su Mediaset. Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato del gruppo, ha un po' fugato, diciamo, la speculazione che di recente aveva ipotizzato un accordo con Sky per la cessione di Premium. Ha detto che non ci sono trattative in merito, non c'è niente di tutto questo, e quindi il titolo ha un po' sofferto nel corso della giornata. E allora, miglior titolo di Novatech più 19,20, Gruppo West Italia più 16,90, Banca Sistema più 12, Leonardo appunto più 7,7, peggiore Novare meno 7,13, Rete Elite meno 5, LN meno 4,91%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, vedo ancora molti messaggi sui voucher di persone che li difendono, questi voucher. Mi scrivono molti ristoratori: se dovessi assumere con il contratto di settore tutte le persone che mi servono per 2 ore al giorno, fallirei. Ho già provato lo scorso anno, quindi o potrò utilizzare i voucher o farò il nero o chiudo e licenzio anche quelli che sono assunti. Oh, qualcuno definisce inquietante la nuova base. Fossero questi i nostri problemi, ringrazio gli ascoltatori. Orrenda, vabbè. Ringrazio tutti gli ascoltatori. Focus Economia torna domani in edizione normale e chiuderemo una settimana abbastanza difficile per il gruppo, oltre che per chi vi parla. Da Sebastiano Berisoni, le auguro una buona serata. Domani torniamo dalle 17 in poi con questa e con altre basi più o meno orrende, più o meno belle. Radio 24. Libera la voglia di fare.